ti racconti che è successo stamattina? Allora, stamattina, dopo insomma, giorni in cui nei scorsi giorni abbiamo avuto un contatto con l'amministrazione comunale e forse anche con l'università, perché non si è capito bene, non hanno rilasciato troppe dichiarazioni, in cui offrivano a Bartleby un posto assolutamente ricevibile, non solo a detta nostra, ma di tutta la società civile che ci sostiene, anche docenti universitari, artisti e tanti e tante che vivono a Bologna. Avevamo in programma domani di andare a chiedere conto al rettore del fatto che non avesse rilasciato alcuna dichiarazione, nonostante insomma, la loro offerta, che non poteva chiamarsi certo contrattazione, ma un'offerta secca, prendere o lasciare 5 giorni. Avevamo in programma domani proprio di venire a chiedere conto a lui di questo comportamento, però ci ha preceduti perché stamattina dalle 7 il quartiere dove sta Bartleby, quindi via San Antonio Vecchio e tutto il quartiere, metà quartiere San Milano, è stato militarizzato, hanno chiuso le strade e hanno cominciato a murare il nostro spazio con tutte le cose dentro, tutte le nostre cose, compreso il fondo Roverti, che è il fondo di rivista che ci ha lasciato Roberto Roverti, poeta e insomma, noto intellettuale della città, morto quest'anno. Siamo quindi venuti qui a chiedere al rettore spiegazioni del fatto che insomma, ha deciso di usare la forza e di sgomberare lo stabile in via San Antonio Vecchio senza provare neanche ad avere un'interlocuzione con noi, e quindi adesso siamo qui, ma naturalmente lui non c'è, il professore Nicoletti non c'è e quindi insomma ricominciamo a la battaglia per Bartleby, lanceremo un'assemblea nel pomeriggio e adesso insomma vediamo, capiamo anche un po' che cosa fare, perché non si trovano, non sappiamo dove sono, non si fanno vedere e noi sicuramente rientreremo in via San Petronio Vecchio 30/A e comunque Bartleby virà nonostante le 4-1. Abbiamo in programma, in cantiere, tanti progetti, un rilancio di un'iniziativa all'università con i docenti e con i ricercatori, aprire un cantiere sul mutualismo, sulla questione dei trasporti e insomma, su tutta un'altra serie di questioni, e quindi non scompariamo perché hanno provato di forza a murare il nostro posto. Grazie.